La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Alcuni dei sette vizi capitali in verità sono delle vanterie capitali, tutti meno due, di cui poi parleremo. Cominciamo dall'ira. Nessuno si vergogna di confessare l'ira e mentre lo ammette con finta contrizione, in verità gli piace apparire temibile e sottintendere guarda che con me non si scherza. E anche se ammette volentieri di essere golosi, come a sottintendere che uno si gusta la vita, anche l'accidia si confessa volentieri, ovvero la pigrizia. Vuol dire io mi permetto questo lusso. Non parliamo poi della superbia, che poi è violenza, che poi è marchio del tempo. La lussuria più di tutto si confessa volentieri. Per i maschi specialmente resta una medaglia al valore e al punto che un ridicolo, dannoso vecchio, coi capelli finti, con la faccia finta, con le parole finte, ci ha costruito la sua reputazione politica, segretamente ammirato dagli italiani. Li ha rovinati governosamente per 17 anni. Però due... L'avarizia e l'invidia sono all'indice. Nessuno ammette di essere avaro o invidioso. E oggi parliamo appunto dell'invidia. Io conosco uno solo che la proclama, che è Paolo Villaggio. Anzi, ne ha fatto il suo cavallo di battaglia e l'effetto comico è sicuro. Perché dire come dicono tutti, io invidioso, ma figurati, ma sei matto. Non è divertente. È divertente solo se si risponde, sì, sono invidiosissimo. Fa ridere qualcuno che dice, io mi rodo di invidia. Più difficilmente è invidioso... Chi sa apprezzare ciò che ha, chi ha il dono di gioire del presente. Io per esempio ho dei lampi di invidia, invidio a pezzi. Vedo un bel seno, una bella faccia con gli zigomi alti, un bel cappotto alla Bogart e penso come mi starebbero bene. Ma non sono una professionista dell'invidia, resto una dilettante occasionale. Perché mi rallegro certe volte in segreto di ciò che ho. Qualche volta mi sembra troppo, non mi capacito, no? Cioè, per esempio, avere vinto la diffidenza di una fanciulla orgogliosa come Gloria Guerrera, che adesso è amica mia, già quello mi sembra un tesoro che non si potrà mai consumare. L'invidia è una vocazione, è una passione devastante e forse anche appagante per chi la prova. Grandi fabbricanti di invidia sono i genitori ingiusti, quando favoriscono sfacciatamente un figlio rispetto all'altro. E allora l'invidia del disamato si mischia al senso di giustizia, come nel bellissimo romanzo di Antonio Pennacchi, Il fascio comunista, che è uscito da poco di nuovo con una nuova scrittura per Mondadori, dove il giovane Accio è tormentato dalla madre che ha un solo figlio, Manrico, infatti il film si chiamava Mio fratello e figlio unico. Ci torneremo presto, ma oggi ci riferiamo ad un altro grande classico, ad Alexander Pushkin e alla sua opera teatrale Mozart e Salieri. L'invidia è un piacere infernale, è come avere la rogna. Non c'è grattata, non c'è sollievo a quest'ansia metafisica di possedere tutto, tutto ciò che appartiene agli altri, o non potendo averlo, di rovinarlo. L'invidioso è un eroe del nonsense, un eroe della stupidità, perché è disposto a dare la vita perché un altro non possa goderne. L'invidioso si sente danneggiato dalla felicità altrui, come se ce ne fosse una quantità limitata e quella degli altri gli fosse sottratta. L'invidioso non ha felicità propria, non ha altro piacere che il dispiacere altrui. E in questo è molto fortunato, perché per come è fatta la vita ha sempre tanti motivi di rallegrarsi. Una malattia, una gamba rotta, una morte, un rovescio economico, un matrimonio che è andato male. Perché la vita è fatta di queste cose e quindi... Basta aspettare. Però ha questa dannazione da girone infernale che non gli basta mai, perché il vero invidioso non è mai veramente placato. Ed è paradossalmente un ottimista, perché l'invidioso professionista è capace di invidiarti anche le disgrazie, e figuriamoci le fortune. Io conosco un cantante oscuro, e oscuro nel senso non conosciuto, che invidia Bocelli e Laminetti perché non ci vedono. E dice, comodo far carriera così. Io invece ci vedo, a me nessuno mi si fila. Non gli è mai venuto in mente che magari lui non è bravo, né come Bocelli né come Laminetti. Certo, se tu sei bravo in un lavoro e diventi sempre più bravo e dopo 20 anni in un'azienda arriva un raccomandato e lo mettono al posto tuo, quella non si chiama invidia, quella si chiama giusta indignazione, ed è abbastanza naturale che tu lo voglia morto. Io ho paura dell'invidioso. L'invidioso è pericoloso. Intanto perché pur di rovinarti la festa è pronto a tutto. Se è un invidioso attivo, ma anche l'invidioso passivo, quello che si rode nell'ombra, anche lui è pericoloso. Guai a essere presi di mira, anche se non muove un dito, perché fra l'invidia e l'eiettatura il passo è breve. Volere il tuo male è già attuare il male. Mi sgomenta se un invidioso mi tiene d'occhio, uno che conta le tue piccole fortune che a lui sembrano smisurate come la sua rabbia, e ne sa dei fatti tuoi più di te stesso. L'invidioso in fondo è un sognatore delle vite altrui e vorrebbe trasformarle in un incubo. Io pratico personalmente degli esorcismi contro l'invidia. Per esempio, mento agli invidiosi. Davanti a loro cerco di sembrare sempre disgraziatissima, di nascondere le piccole felicità. Preferisco mille volte essere compatita che invidiata, e ridermela se l'invidioso mi pensa distrutta. Certo, quando la Tamaro ha venduto 20 milioni di copie, mi è venuto un attacco di invidia da restarci morta. Oggi con Giuseppe Sanzonna, come sempre prestato da Nicoletti, che non è un invidioso, anzi un generoso, e con Giuseppe Sanzonna che ci dà la grande gioia di essere qui a prestarsi ai nostri teatrini, leggeremo un lavoro teatrale di Alexander Pushkin sull'invidia fra artisti, intitolato Mozart e Salieri, dove il musicista Salieri è invidioso di Mozart fino al delitto, come nel famoso film di Miloš Forman, Amadeus, tratto dal dramma di Peter Schaffer del 1978. C'è anche un'opera presa dal Mozart e Salieri di Pushkin ed è il melodramma di Rimsky-Korsakov con lo stesso titolo, che fu un insuccesso totale e che è stato un pochino resuscitato dopo l'uscita del film. La guardiana del faro. Adesso, in questo atto unico di Pushkin, mentre il giovane Sanzonna interpreterà il vecchio Salieri, io indegnamente leggerò la parte di Mozart. Tutti dicono: non c'è verità sulla terra, ma la verità non c'è nemmeno più in alto. Io sono nato con l'amore per l'arte, ancora bambino. Respinsi i futili divertimenti, mi diedi alla sola musica. Misi il mestiere a base della mia arte, mi feci artigiano. Non di rado, dopo essere rimasto 2-3 giorni nella mia cella silenziosa, dimenticato il sonno e il mangiare, io bruciavo il mio lavoro, aspirando alla perfezione. La gloria mi sorrise. Ero felice, godevo in pace del mio lavoro, del successo, della gloria, e anche dei lavori e dei successi degli amici, miei compagni nella divina arte. No, io non conobbi mai l'invidia. Oh, mai. Neppure quando Piccinni seppe ammaliare l'orecchio dei selvaggi parigini. Neppure quando sentii la prima volta i primi accordi dell'Ifigenia. Chi potrà mai dire che l'orgoglioso Salieri sia stato un giorno uno spregevole invidioso? Un serpente calpestato dalla gente, che morde la sabbia e la polvere? Nessuno. Ma adesso lo dico io stesso. Adesso io sono questo invidioso. Io invidio, profondamente invidio, tormentosamente. Oh cielo, dov'è dunque la giustizia, se il dono sacro, il genio immortale, non è dato in compenso dell'ardente amore, dell'abnegazione, del lavoro, dello zelo, delle preghiere, ma illumina la testa di un folle, di un ciondolone ozioso. Oh, Mozart! Mozart! Entra Mozart. Ah, ma hai visto? E io che ti volevo fare uno scherzo. Tu qui? È da molto? No, no, sono venuto adesso. E venivo da te. Ho portato una cosa da farti vedere. Ma passando davanti a una trattoria, all'improvviso ho sentito un violino. No, amico mio, Salieri. Non hai sentito da che sei nato nulla di più bello. Un violinista cieco suonava nella trattoria. Voi che sapete, stupendo. Non ho resistito. E ho portato qui il violinista per offrirti la sua arte. Entra un vecchio cieco col violino. Suonaci qualcosa di Mozart. Mozart ride. E tu puoi ridere? Ah, Salieri, ma davvero tu non ridi? No, non ho voglia di ridere se un pittore incapace mi sgorbia una Madonna di Raffaello. Non ho voglia di ridere se uno spregevole buffone disonora l'Alighieri con una parodia. Va via, vecchio. Aspetta un po', eccoti qualcosa. Bevi alla mia salute. Il vecchio esce. Tu, Salieri, non sei di buon umore oggi. Verrò da te in un altro momento. Che cosa mi hai portato? Niente, una cosetta. Qualche giorno fa, di notte, ero tormentato dall'insonnia e mi vennero in testa due o tre idee. Oggi le ho buttate sulla carta. Avrei voluto sentire cosa ne pensi, ma adesso è vero che pensi ad altro che a me. Ah, Mozart, Mozart. Quando non penso a te? Siedi, ascolto. Mozart si mette al pianoforte. Immaginati me, un po' più giovane, innamorato, ma non troppo, così così. Insieme a una bella fanciulla, oppure con un amico, mettiamo con te. Sono allegro. A un tratto una visione di tomba, un'improvvisa tenebra o qualcosa di simile. Bene, ascolta dunque. Tu venivi da me con una cosa simile e ti sei potuto fermare nella trattoria ad ascoltare il violinista cieco. Oh Dio, tu, Mozart, non sei degno di te stesso. Ma insomma, ti piace o no? Quale profondità, quale eleganza. Tu, Mozart, sei un dio e non lo sai tu stesso. Io lo so. Sì, sì, va bene, ma adesso la mia divinità ha fame. Andiamo alla trattoria del Leone d'Oro. Volentieri. Aspetta un attimo che io vado a casa mia a dire a mia moglie che non mi aspetti a pranzo. Ti aspetto. Non mancare. No. Non posso oppormi più a lungo al mio destino. Io sono eletto a fermarlo. Altrimenti siamo tutti perduti. Noi, i sacerdoti, i servi della musica, e non soltanto io. A che serve se Mozart viva ancora e raggiunga nuove vette? Eleva egli con ciò ancora l'arte? No. Essa cadrà di nuovo non appena scomparirà. Egli non ci lascerà un erede. A che serve egli? Come un cherubino, egli ci ha portato canti paradisiaci per volarsene via di nuovo, dopo aver suscitato in noi, figli della polvere, un desiderio senza ali. E così vola via. Quanto prima, tanto meglio. Ecco il veleno, ultimo dono della mia Isaura. Sono 18 anni che lo porto con me. Spesso da allora la vita mi è sembrata una ferita insopportabile e spesso mi sono seduto alla stessa tavola col nemico spensierato e mai mi sono piegato alla tentazione, sebbene non sia un vile, sebbene senta profondamente le offese ed ami poco la vita. Ho sempre esitato. Quando la sete della morte mi tormentava, perché morire? Pensavo. Forse la vita mi porterà inaspettati doni. Forse verranno a me l'entusiasmo e l'ispirazione. Forse un nuovo Haydn creerà qualcosa di grande ed io potrò goderne. Io avevo ragione e finalmente un nuovo Haydn mi ha abbeverato di entusiasmo. Adesso l'ora è venuta. Oh, dono sacro dell'amore, passa oggi nella coppa dell'amicizia. Cena si sposta adesso, Salieri e Mozart sono al ristorante insieme, seduti a tavola. Perché sei di cattivo umore oggi? Io no. C'è qualcosa certo che ti turba, Mozart. Il pranzo è buono, il vino è eccellente e tu taci e sei imbronciato. Senti, ti devo confessare che il mio requiem mi tormenta. Ah, Tu componi un requiem da molto tempo? Da 3 settimane. Ma è un caso strano. Non te ne ho parlato, eh? No. Allora, senti. 3 settimane fa ero a casa, giocavo sul pavimento con mio bambino. A un certo punto mi chiamano. Esco e vedo un uomo vestito di nero. Si inchina rispettosamente e mi ordina un requiem. E poi scompare. Io mi sono messo subito al lavoro. E da allora non mi è più cercato. E ne sono felice. Non sono pronta a separarmi dal mio lavoro. Sebbene il requiem sia del tutto pronto. Ma intanto io... Che cosa? Sai, mi vergogno a confessarlo. Che cosa? Non mi dà pace. Giorno e notte il mio uomo in nero. Mi perseguita dovunque, come un'ombra. Ecco, adesso mi sembra che sia qui, con noi. Basta! Cos'è questa paura infantile? Beaumarchais mi diceva: ascolta, fratello Salieri, quando ti vengono pensieri neri, stappa una bottiglia di champagne o rileggiti Le nozze di Figaro. Ah, Beaumarchais era tuo amico. Tu hai composto per lui Tavara, un'opera riuscita. C'è un motivo, io lo ripeto sempre quando sono felice. È vero di Salieri che Beaumarchais ha avvelenato qualcuno? Non credo. Era troppo gioviale per un mestiere simile. Beaumarchais era un genio, come te e come me. E il genio e il crimine sono due cose incompatibili, non è così? Tu credi? Salieri, di nascosto, butta il veleno nel bicchiere di Mozart. Su, bevi dunque. Alla tua salute, amico. Alla sincera alleanza che unisce Mozart e Salieri, due figli dell'armonia. Aspetta, aspetta, aspetta. Tu hai bevuto senza di me. Basta, sono sazio. Ascolta, Salieri, ascolta adesso il mio requiem. Salieri, tu piangi. Queste lacrime le verso per la prima volta io. Mi dà dolore e mi fa piacere, come se avessi adempiuto ad un penoso dovere, come se un coltello salutare mi avesse tagliato un membro sofferente. Amico Mozart, queste lacrime, non ci far caso. Continua, affrettati a riempirmi l'anima di suoni. Magari tutti sentissero così la forza dell'armonia. Allora non potrebbe nemmeno esistere il mondo. Nessuno baderebbe alle necessità della vita terrena. Tutti si abbandonerebbero alla libera arte. Noi siamo un piccolo gruppo di eletti, di oziosi fortunati, che trascurano lo spregevole utile, sacerdoti della sola bellezza. Non è così? Ma adesso è strano, mi sento male. Sento come un peso in me. Vado a dormire. Addio. Arrivederci. Ti addormenterai per lungo tempo, Mozart. Ma se lui avesse ragione, ed io non fossi un genio. Genio e crimine sono due cose incompatibili. Non è vero. È Buonarroti? O è una fiaba della folla ottusa, e non fu un assassino il creatore del Vaticano? A proposito di questo atto unico di Pushkin, ci fu un bellissimo commento. Lui aveva raccolto queste voci secondo le quali Salieri aveva avvelenato Mozart e ha inspessito quest'ombra di sospetto così fortemente con questa sua pièce teatrale, ed è stato detto: se non è certo che Salieri ha assassinato Mozart, è sicuro che Pushkin ha assassinato Salieri. Questa vicenda del film e della commedia è uno strano apologo sull'invidia. Perché da questo piccolo capolavoro di Pushkin derivano sia il dramma sia il film. E non mi risulta che nessuno lo abbia mai citato. E questo in qualche modo è il completamento dell'opera di Pushkin sull'invidia. Perché tacere il suo nome? È una cosa insensata. Non ha alcun motivo pratico. Perché quando è stata scritta la commedia e poi girato il film, Pushkin era fuori diritti da 150 anni. E citare il suo nome non avrebbe che aggiunto prestigio. E invece no. Gli autori, due grandi autori, perché Forman è un regista magnifico, originalissimo, pieno di inventiva, e anche il commediografo Schaffer è molto famoso, hanno copiato Pushkin come due scolari invidiosi. Invidiosi di un morto. Pushkin, una leggenda, e così nemico di se stesso che anche in vita non si sarebbe potuto che disperatamente volergli bene. È prodigiosa l'invidia, scavalca i secoli, scavalca la ragione, scavalca se stessa, e questi appunto hanno plagiato Pushkin, senza nominarlo. A volte poi l'invidia si nasconde. Per esempio, no? Noi abbiamo un po' accorciato il testo per motivi di sostenibilità radiofonica. Ma non saremmo anche noi, io, Gloria, Sansonna, anche noi un po' invidiosi del sommo Pushkin? La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, ho commesso un grosso errore nella mia vita. Sono rimasta incinta di un bravo uomo che amavo e che, pur non essendo pronto per l'impresa, si è preso la responsabilità di questa famiglia. Io, lui e nostro figlio. Allora lui voleva una vita nuova, più libera, e alla fine la mia gravidanza l'ha costretto ad una vita che non voleva. Un matrimonio iniziato male non può che finire male, è matematico, no? 6 anni dopo non so cosa fare. Lui finalmente mi ha detto che mi vuole bene, ma non mi ama. Io, che ho imparato da piccola in modo sbagliato che amore vuol dire essere amata, sono lontana dal saper amare, ma lo amo. Amo la mia piccola e tanto desiderata, da parte mia, famiglia. Non so cosa fare, perché forse è proprio questo che devo imparare. Amare senza essere amata, e così restare. Tanto per lui va bene così, soprattutto perché adora nostro figlio, è un buon padre, e comunque c'è desiderio fra di noi. Oppure, rendermi alla consapevolezza di questo enorme sbaglio e andarmene. Non vorrei sbagliare di nuovo. H. A me sembra una storia bella nella sua grande tristezza. Cioè, lui ti ha dato tutto meno ciò cui più tenevi, che era l'amore. E c'è questo presepe un po' buio dove lui accetta la sua responsabilità. È un uomo probo, un bravo padre, un marito degno, ma dice che non ti ama. Ma lo sai che io non ci credo mica del tutto. Io credo che si tratti di parole. Io credo che vi siate impietriti ognuno in un ruolo obbligato. Tu sei quella che ama, lui quello che non riesce ad amare. E non credo nemmeno che a letto possa trattarsi solo di sesso. A parte che il sesso non è mai solo sesso. Tra l'altro, io cito questa frase di qualcuno che non so chi sia. È una frase che mi ha fulminata, l'ho letta e non ricordo dove. Quindi mi scuso con l'autore, io cito sempre le fonti. E pazienza, questa volta non me la ricordo. Io credo, tornando a te, due persone che prendono sul serio la famiglia, che si amano col corpo. Un trasporto, una ragione profonda c'è. Io credo, sì, come dici, che se vai via adesso sbagli. Nota bene, io suggerisco sempre la fuga. Suggerisco sempre la rottura, la fuga, la liberazione. Però qui c'è qualcosa di misterioso, di tenero, che mi sfugge. E che forse sfugge anche a te. Lui vuole punirti perché non ha avuto la sua vita più libera. Ma tu mica l'hai legato con le catene. Se lui va bene così, non può essere solo rassegnato. Non vuole ammettere che quello di una vita diversa, di una vita libera, di una vita solitaria, è un sogno non più attuale. Non vuole ammettere che è entrato in un altro sogno. Chissà perché mi pare che lui ti ami, che la frase che ti ha detto voglia dire il contrario. Oh, a me nessuno mi dà retta e penso nemmeno tu. Però dai troppa retta alla parte di te che si sente ferita. Tempo fa, con Gloria Guerrera, abbiamo scoperto con emozione che Licia Colò ascolta La Guardiana del Faro. E Gloria, io e Alessandro Chiappini abbiamo sempre pensato che dovremmo essere protetti dal WWF. E la benevolenza di Licia ci conferma che siamo degni di attenzione come gli orsi della luna. Questa donna, che fisicamente sembra l'illustrazione di un libro di fate, con quel sorriso limpido, questi occhi trasparenti, e sembra che a toccarla debba quasi scomparire, così diafana. Invece, come si dice oggi, è tostissima e porta avanti con molta forza la sua battaglia contro il suicidio collettivo di noi umani, che ci siamo messi veramente seriamente d'impegno a distruggere il posto dove abitiamo e i suoi abitanti, noi compresi, in nome di una divinità inerte che si chiama il mercato o il guadagno di pochi, quelli che intascano sulla distruzione. Però poi la distruzione riguarda tutti. Questi versetti inqualificabili gliel'ho dedicati io. La dolce Licia è un duro combattente che lotta senza tregua per l'ambiente, per salvare, coi lupi ed il gabbiano, anche se non lo merita, pure l'essere umano. Questa filastrocca infantile, ma molto sentita, gliel'ho dedicata per il giornale Confidenze. E proprio su questo giornale, da un'intervista di Maria Grazia Sozzi, vedo che questo zorro degli animali è anche uno zorro della sincerità. Perché io vedo tutte le persone famose che fanno questo irritante disegno del loro perfetto quadro familiare. Si amano tutti, sono d'accordissimo, il marito è il migliore del mondo, il rapporto con i figli è perfetto. Alice invece a una domanda precisa risponde: mi dispiace, il mio matrimonio ballonzola, non con queste parole, ma insomma. E che la sua bambina Liala è la sua ragione di vita, ma non mi realizzo in lei. Nella vita ci deve essere anche qualcos'altro. Qui in Capitaneria di Porto, la conduttrice televisiva Licia Colò è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. C'è Licia Colò in linea? Barbara, ciao. Cara Licia, mi è piaciuta questa tua affermazione. Hai detto mille volte meglio una buona separazione che un cattivo matrimonio. Beh, certo. I tempi fortunatamente sono cambiati, quindi ci si deve scegliere ogni giorno, non siamo costretti a stare insieme. E allora credo che le persone possano vivere magari un amore bellissimo, non è detto che sia eterno. Qualora non fosse così, è meglio una civile separazione. Perché si è passati dall'ergastolo alla libertà vigilata. Che... E tu dici sempre in questa intervista che i tuoi genitori sono riusciti a fare questo, cioè a fare una buona separazione. Ci racconti qualcosa di questo? Guarda, i miei genitori sono sicuramente ancora oggi i più cari amici che si possano incontrare. Fra di loro? Fra di loro. Si sono amati molto, sono nata io, sono stati insieme con entusiasmo per tanti anni e poi a un certo punto della vita hanno scelto di separarsi perché evidentemente non c'era più quell'emozione che li coinvolgeva nello stare insieme. Non è stata una scelta né di convenienza né di superficialità. È stata una scelta sofferta, meditata, una scelta però giusta, perché io alla fine sono cresciuta con due persone realizzate nella vita, ognuna delle quali mi ha dato quello che mi poteva dare. E quindi non sono stati quelli che, come usa oggi, prendono i figli in ostaggio e li usano come un'arma contro l'altro, che è uno dei delitti più terrificanti. È una cosa vergognosa. Io ti posso dire che devo ringraziare tutta la vita mia madre, perché mio padre faceva il pilota, quindi c'era poco. In più era uno anche molto godereccio, diciamo, non era immolato proprio alla famiglia. I miei erano separati, sarebbe stato facile per mia madre allontanarmi da mio padre. E invece mi parlava sempre bene di mio padre, me lo portava come esempio, ogni volta che tornava a casa mi invitava ad andarlo a trovare, perché secondo me la stima era rimasta, è rimasta. Ma infatti quando i due coniugi ex diventano belve assetate di sangue, appunto, che si fanno scudo dei bambini e li coinvolgono senza scrupoli, sì, penso che non ci fosse un progetto neanche prima. Beh, quindi questo smaschera l'insincerità anche del rapporto che c'era prima. Non è possibile che ci si trasformi totalmente, evidentemente non ci si è conosciuti abbastanza. Senti, ti ho vista in televisione con questa bravissima sciatrice, Isolde Kostner, sì, con questo bel nome Isolde che sembra venire da una saga nibelungica. Come sono le genti di montagna? Viste così sembrano diverse. La gente della montagna in fondo assomiglia molto alla gente del mare, degli isolani più che altro, perché sono persone che all'inizio sono più chiuse, sono persone che comunque anche la temperatura rende più dure nel corpo e a volte anche nello spirito, insomma non sono amiconi subito. Sono persone che ti guardano un attimino con sospetto quando arrivi, però poi trovo che siano persone di grande generosità, così come gli isolani in fondo. Tutto ciò che crea difficoltà nel quotidiano, alla fine ti tempra nello spirito, nel corpo, e quindi non ti fa portare a slanci immediati, sia un attimino più cauti. Licia, ti posso chiedere com'è cominciata questa intesa con gli animali? Amare gli animali significa, anzi, usiamo il termine rispettare gli animali. Non voglio parlare d'amore, non c'è bisogno di amare un animale, però è indispensabile rispettarlo. Significa rispettare i più deboli in genere. A volte mi arrabbio quando le persone mi scrivono: ah, tu ti occupi degli animali e non ti occupi degli uomini. Veramente è una cosa che mi lascia molto delusa, perché le persone che dicono questo probabilmente non si occupano di nessuno. Se uno distrugge l'ambiente, distrugge anche la propria vita. Cioè, in questi giorni a Roma molte volte ci sono le targhe alterne per l'inquinamento. Ma come si può dire di disinteressarsi dell'ambiente? Mica possiamo smettere di respirare. Vivere in un ambiente sano, circondati da realtà serene, tranquille, significa amare se stessi dal mio punto di vista. Ma infatti c'è una cosa che mi lascia sempre secca ed è questo atteggiamento derisorio verso chi si occupa dell'ambiente, come se si fosse delle dame di carità, non so come dire. Sì. Barbara, io a volte ci rimango male perché anche persone che stimo dicono quelli si occupano di animali o quelli si occupano d'ambiente e non capisco come si possa dire una cosa del genere. In fondo occuparsi di diritti degli animali significa occuparsi anche di quello di cui ci nutriamo. Gli animali non sono soltanto cani e gatti, animali significa allevamenti intensivi, significa animali da carne, significa uova, galline, significa cavalli, significa tutto e l'ambiente appunto significa respirare aria pulita. Non si può essere superficiali. Occuparsi d'ambiente significa anche, oltre al dramma umano che si è vissuto in questi giorni della Costa Crociere, significa anche occuparsi del pericolo che ci può essere legato all'inquinamento che distrugge non soltanto gli abitanti del mare ma anche il turismo di quella zona. Quindi è tutto collegato. Senti Licia, mi dici una cosa, qui la modestia non c'entra, sì. Sono proprio curiosa io, tu sei una figura di donna piuttosto fuori dal tempo, nel senso che sei molto dolce, questo fa di te una grande seduttrice o no? No, sono assolutamente scarsa. Voglio dire, sono molti quelli che si innamorano? No, guarda, assolutamente no. Quando ero più piccola, però, credo che sia una cosa rimasta abbastanza uguale. Sono sempre stata accusata di essere molto fredda, molto distaccata. Io non sono una persona fredda né distaccata, dipende cosa significa offrirsi. Sicuramente come ci si offre oggi non è un modo nel quale io mi rispecchio o mi rappresento, ma sono felice di essere così. E allora devo dire la verità che non ho corteggiatori. Non ma è una fila così fuori della porta di gente che rumoreggia. Licia, Licia! Mi attendono con grande amore. Licia, secondo te, ma proprio così facendo due chiacchiere mattutine tra amiche, come finirà questa storia della Terra? A me serenamente pare che prima che si cambi questo modello di sviluppo, il fatto che andiamo a tutta birra verso il guadagno e la guerra, prima che questo si cambi, secondo me saremo morti tutti. Tu cosa pensi? Ma io voglio essere ottimista perché credo che comunque tutte le cose brutte che stanno accadendo, un istinto di sopravvivenza non possa essere abbandonato, quindi saremo costretti per forza ad accorgerci che dobbiamo fare un cambio di rotta, un cambio di marcia. A novembre siamo entrati in riserva, non è un modo di dire, è un tema che io vorrei trattare in maniera più approfondita per farlo capire. Noi come pianeta stiamo consumando molto di più di quello che produciamo. E poi non possiamo sempre pensare a noi italiani o comunque paesi occidentali, dobbiamo pensare alla metà del mondo che è povera, che nel 2012 ha ancora tantissimi problemi. Siamo entrati in riserva, non si può andare avanti così, saremo costretti a cambiare marcia anche poi dalle crisi economiche che ci si mettono davanti, perché poi sono dei dati di fatto, e saremo costretti a capire che abbiamo bisogno degli animali, dell'ambiente, dell'aria pulita per vivere meglio, perché anche l'aumento di malattie che c'è stato negli ultimi anni non può lasciarci allividi, sennò siamo proprio stupidi e se siamo stupidi meritiamo di estinguerci. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, un uomo mi ha resa prigioniera in una platonica passione, perché fra noi non è successo mai nulla di fisico, ma solo sguardi fugaci e discorsi sconnessi. Pensavo che fosse il preludio di un banale tradimento. Siamo entrambi fidanzati. Mi sono tormentata senza abbandonarmi a lui, perché io non lo amo. Io amo il mio fidanzato. Così, dopo un anno, ho capito. C'è qualcosa che trascende l'amore. Lui dice di non poter fare a meno di me, eppure sono sicura che non lascerebbe mai la sua fidanzata, ma neanche io lascerei il mio. Eppure non c'è giorno in cui non pensi a lui. L'amore lo riservo al mio ragazzo, con cui ho un rapporto bellissimo, anche sessuale. Non provo gelosia né invidia per la sua ragazza, perché non è un fidanzato che voglio, né un amante. Quello che condivido con lui sono emozioni, che neanche l'amore è mai riuscito a farmi provare. Ci perdiamo l'uno nell'altra senza neanche sfiorarci. Che devo fare? A volte penso che lui sia innamorato di me, ma a me non importa, io non sono coinvolta. Forse siamo solo amici. Secondo lei, cosa siamo? Lilla. Cosa siete? Siete due narcisi matricolati che si specchiano l'uno nell'altro. Siete due traditori che sublimano la loro attrazione e che, da non realizzarla, traggono la soddisfazione massima. È inutile, sai, Lilla, che tu voglia amare il tuo fidanzato. Questa tua insistenza nel dirlo è un manifesto che afferma il contrario. Tu hai un rapporto bellissimo col tuo ragazzo, e come no? È così bello che a letto con lui pensi sempre all'altro. Così bello che alla faccia sua hai una storia segreta terribilmente sentimentale, che ti fa provare parole tue più dell'amore. Ma più dell'amore c'è solo Dio, cara Lilla. Più dell'amore c'è solo l'amore. Come sarei gelosa se fossi il tuo lui o la lei dell'altro. Con una storia di letto si può combattere e si può sempre applicare la stupidissima scusa. No, ma c'era solo sesso. Come se il sesso mai fosse solo sesso. Ma a parte questo, ma qui che diresti? C'è solo amore. Un amore così forte, così consapevole, da poter rinunciare ai baci, da essere pieno solo stando insieme. Il vostro tradimento, questo tradimento li comprende tutti ed è in questo senso una garanzia per i due cornuti. Per avere un consiglio, sai che devi fare? Più che leggere la mia risposta, rileggi la tua lettera, senza quegli occhialetti ipocriti che ti stanno tanto bene, e vedrai che significa il contrario di quello che c'è scritto. Quando dici che non sei gelosa della sua ragazza, che l'amore lo riservi al tuo ragazzo e soprattutto che non pensi mai a toccarlo, ma ci pensi giorno e notte. Ma perché state sempre con chi non amate? È così piacevole rovinarsi la vita, ragazzi. Qui Capitaneria di Porto. L'ortolano astrologo Robert de Saint-Loup ci ha intercettati e chiede della guardiana del faro. Buongiorno, Barbara. Robert, sei tornato. Questo è un grande momento. Robert de Saint-Loup, ti abbiamo cercato disperatamente perché ci dicessi qualcosa del 2012. Barbara, sono in giro in questo periodo e non posso dire esattamente dove. Ti comporti come uno 007, va bene, senti. Sono in missione speciale. D'accordo. Cosa ci dici di questo anno che ci preoccupa tutti così tanto? Beh, in parte che quest'anno se ne parla veramente da tanto tempo. Chissà che cosa ci potremo aspettare. Però anch'io volevo dare la mia previsione un po' diversa da quelle che ho sentito dare in giro e volevo darla attraverso lo studio delle eclissi solari di quest'anno. Ci saranno delle eclissi quest'anno? Sì, ogni anno ci sono due eclissi a distanza di 6 mesi l'una dall'altra e quest'anno saranno una a maggio e una a novembre. E in realtà non sempre le vediamo da tutte le latitudini, per cui non è detto che siano visibili e che siano totali, però saranno due eclissi di sole e in qualche modo attraverso lo studio delle eclissi io credo che si possano capire alcune cose dell'anno che sta iniziando, perché le eclissi in realtà sono dei fenomeni non ciclici come tutti i fenomeni del cielo, ma sono dei fenomeni seriali, quindi ciascuna eclissi che a noi appare isolata in realtà appartiene ad una famiglia. Una famiglia che ha una vita di 1244 anni, quindi a un certo punto della storia un'eclissi nasce, vive 1244 anni durante i quali si manifesta ogni 18 anni. E se noi facciamo la carta natale di un'eclissi nel momento in cui nasce, come se fosse una persona, le possiamo dare alcune caratteristiche, alcuni connotati proprio di carattere, che è come se si rimanifestassero ogni volta che questa eclissi visita il pianeta. Proprio con una sua vita, perché l'eclissi nasce al polo ed è minuscola e ogni 18 anni si ripresenta e cresce finché non arriva all'equatore a metà della sua vita e ha il suo punto di massimo vigore e poi comincia a rimpicciolirsi finché poi dopo altri 622 anni sparisce all'altro polo. E quindi io sono andato a vedere a che famiglia appartengono le due eclissi che si manifesteranno quest'anno e già ho fatto una prima scoperta, perché sono due eclissi diverse. La prima, quella che si manifesta a maggio, è un'eclissi che è nata nel 984 d.C., quindi è già matura, diciamo, sta già nella sua seconda fase. E l'altra eclissi invece è molto più recente, perché è nata nel 1219 e hanno straordinariamente una conformazione della carta natale quasi identica. E questa è una coincidenza, nel senso che nonostante avvengano entrambe quest'anno, sono state generate in due momenti diversi. Eppure hanno una carta natale identica, che quindi ci suggerisce delle caratteristiche per quest'anno che vengono ribadite due volte. Ovvero quali? Ho notato una contrapposizione molto forte tra la terza casa, che è quella che rappresenta la comunicazione, il dialogo, la parola, e la nona casa, che è quella che rappresenta le conquiste, l'espansione verso nuovi orizzonti. Queste due case sono occupate da alcuni pianeti che fanno pensare che da una parte ci sarà un evento imprevedibile, Urano, che porterà in un certo senso ad una restrizione di quelle che sono le nostre abitudini di comunicazione, come se per esempio a un certo punto per sovraccarico andasse in un blackout la rete dei cellulari, oppure internet sulla quale contiamo ormai per qualunque forma di comunicazione interpersonale. Che è e quindi torneremo casa. A chiamarci dalla finestra? Torneremo a scriverci delle lettere e diventerà indispensabile tutto quello che non è digitale ma è materiale, quindi il disco di vinile, quindi la lettera, la penna, e questo in qualche modo produce una restrizione di quelle che sono certe nostre abitudini. Però dall'altra parte c'è un'espansione enorme nella nona casa, che invece rappresenta le nuove conquiste, i nuovi orizzonti, le comunicazioni verso l'ignoto, e quindi è come se a un certo punto ci potessimo ritrovare in un silenzio determinato dal fatto che i cellulari si spengono di punto in bianco, e in questo silenzio potessimo per esempio ascoltare forse anche le voci degli alieni, di cui molto si parla. Magari basterebbe anche ascoltare quelle del vicino. Ascoltare quelle del vicino, ma questa nona casa così forte fa pensare proprio a nuove scoperte. Per esempio, questa stessa eclissi di maggio ha raggiunto il suo punto di massima espansione nel 1616, e nel 1616 da un lato siamo in piena inquisizione, per cui sicuramente la facoltà di parola è limitata, come oggi diremmo questa terza casa tristretta, però dall'altra parte viene avvistata per la prima volta l'Australia, e quindi cambia completamente la conformazione del mondo come lo abbiamo pensato, del pianeta. E oggi questo, sotto questa stessa eclissi, potrebbe farci pensare da un lato che una serie di mezzi di comunicazione da cui ormai dipendiamo ci lasciano, e dall'altro però che se ne accostano di nuove, di forme di espansione che ci fanno cambiare il nostro punto di vista su come è fatto l'universo, per esempio. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.